Ho visto le migliori menti della mia generazione, distrutte da pazzia. Affamate, isteriche, nude. Strascicarsi per strade negre all'alba in cerca di una pera di furia. Hipster scapodangelo, bramare l'antico spaccia paradisiaco che connette alla dinamo stellare nel meccanismo della notte. Che povertà e stracci e occhiaie fonde e strafatti. Stavan lì a fumare nel sovrannaturale buio di case con acqua fredda, librati su tetti di città, contemplando jazz. Che in università erano di passaggio, con occhi raggianti e cool allucinando Arkansas e Blake l'umilievi tragedie tra studiosi della guerra. Che erano espulsi da accademie per pazzo e osceno pubblicare odi sulle finestre del cranio. Che in camere non sbarbate impauriti s'acquattavano in mutande, bruciando i soldi nella carta straccia e ascoltando il terrore di là dalla parete. Che si facevano beccare con barba pubica tornandovi a Laredo con cintura di marijuana per New York. Che mangiavano fuoco in hotel ridipinti o bevevano trementina in Paradise Alley. Morte. O si purgatoriavano il torace notte dopo notte con sogni, con droghe, con incubi a occhi aperti, alcol e cazzo e balle e sballi senza fine. Che si incatenavano alla metro in corsa senza fine da batteri a Santo Bronx, fatti di benzedrina, finché il rumor di ruote e bambini li buttava giù tremolanti, bocca autotorturata, e il tetro del cervello spremuto d'ogni brillanza nella luce cupa dello zoo. Che parlavano di continuo 70 ore da parco a casetta, a bar, a manicomio Bellevue, a museo, a Brooklyn Bridge. Un battaglione perso di conversatori platonici che si buttano giù da scalini, giù da scale antincendio, da davanzali, dall'Empire State, piombando dalla luna. Ciacolando, strillando, vomitando, sussurrando, fatti e memorie, e aneddoti, e sballi ottici, e shock d'ospedali, e galere e guerre. Che s'accendevano sigarette nel clangor, clangor, clangor di carri merci tra neve verso fattorie isolate in notte da nonno. Che studiavano Plotino, Poe, San Giovanni della Croce, telepatia e cabala bop, poiché il cosmo istintivamente in Kansas vibrava ai loro piedi. Che nel loro andar soli per strade dell'Idaho cercavano angeli indiani visionari che fossero angeli indiani visionari. Che trombavano in limousine col cinese di Oklahoma su impulso di invernal mezzo notturna e lampionata pioggia di provincia. Che riapparivano sulla West Coast a investigare l'FBI con barba e short e grandi occhi pacifisti, sexy su pelle bruna, dando via volantini incomprensibili. Che con sigarette si bruciavano buchi nelle braccia per protesta contro la foschia tabacco-narcotica del capitalismo. Che distribuivano pamphlet supercomunisti a Union Square, piangendo e spogliandosi mentre le sirene di Los Alamos ululando li zittivano, ululando giù per Wall Street e ululava lo Staten Island Ferry. Che se lo faceva andare in culo da pii motociclisti e strillavano di gioia. Che pompavano a ed erano pompati da quei serafini umani. I marinai, carezze d'Atlantico ed amor caraibico. Che scopazzavan mattino e sera tra giardini di rose ed erba di parchi pubblici e cimiteri, spargendo seme liberamente in chiunque si trovasse a passare, che tutti una risatina singhiozzante finivan poi in un gemito dietro un tramezzo di bagno turco quando l'angelo biondo e nudo veniva a trapassarli con la spada. che perdevano i ragazzi amore, tolti loro dalle tre megere del fato, la megera guercia del dollaro eterosessuale, la megera guercia che ci strizza l'occhio dall'utero, e la megera guercia che sta lì seduta col culo pronta a tranciare gli intellettuali fili d'oro del telaio artigiano, che copulavano estatici e insaziati con una bottiglia di birra, col moroso con pacchetto di sigarette, con candela e cadevano dal letto, e continuavano per terra e giù nell'ingresso, finendo svenuti contro il muro con una visione di superna figa e venute, eludendo l'ultima sborata della coscienza. Che sparivano in dissolvenza, in vasti sordi di film, erano levati in sogno, si svegliavano in un'improvvisa Manhattan, si tiravano su in piedi da sottoscala di post sbronze da tokai senza cuore e orrori da terza strada in sogni ferro e barcollavano fino a uffici di collocamento. Che creavano grandi drammi suicidari in appartamenti sulle rive a falesia dello Hudson sotto la fotoelettrica azzurra tempo di guerra della luna e le loro teste saranno coronate di lauro nell'oblio. Che piangevano all'amoreggiar di strade tutte carrettini pieni di cipolle e brutta musica. Che sedevano dentro scatole respirando al buio sotto il ponte e sorgevano a costruire clavicembali nei loro loft. Che scribacchiavano tutta notte rock and roll dondolando su elevati incanti che nel mattino giallo erano strofe di scempiaggini. Che erano bruciati vivi nei loro innocenti vestiti di flanella in Madison Avenue tra scoppi di poesia plumbea e il ticchettio fradicio di ferrei reggimenti della moda. E squittì nitroglicerina di checche pubblicitarie e il gas vescicante di sinistri editors intelligenti o erano tirati sotto dai taxi sbronzi della realtà assoluta. Che guidavano da costa a costa 72 ore per scoprire se io avevo avuto una visione o tu avevi avuto una visione o lui una per scoprire l'eternità. Che partivano per Denver, che morivano a Denver, che tornavano da Denver e aspettavano invano, che vegliavano su Denver e rimuginavano e stavano soli a Denver e infine se ne andavano a scoprire il tempo. E ora Denver si sente sola senza i suoi eroi. Che cadevano in ginocchio in cattedrali i nani pregando per salvezza e luce e petti l'un dell'altro. Finché all'anima si illuminavano i capelli per un secondo. Che addolcivano la fregna a milioni di ragazze tremanti nel tramonto e avevano gli occhi rossi la mattina, pronti però ad addolcir la fregna dell'alba con le chiappe all'aria nei granai e nudi nel lago. Che andavano a battere per il Colorado in macchine da notte rubate a miriadi. Neil Cassidy, eroe segreto di queste poesie, uomo tutto cazzo e adone di Denver, gioia alla memoria di innumerevoli scopate di ragazze in terreni e parcheggi ristoro da camionisti, in vecchi cinema su sedie sgangherate, su cime di montagna, in caverne o con cameriere ossute per bordi di strade familiari a desolata sotto veste alzata. Che uscivano di mente sfondandola in galera, aspettando impossibili criminali dai capelli d'oro e con in cuore l'incanto della realtà. Che canta un bel blues a Alcatraz. Che richiedevano verdetti di sanità mentale accusando la radio di ipnotismo e li si lasciava con la loro pazzia e loro mani e giuria divisa. Che al CCNY gettavano insalata di patate a conferenze sul dadaismo. presentandosi poi sui gradini di granito del manicomio a testa rasata e discorsi arlecchino di suicidio, richiedendo lobotomia istantanea. E che invece si vedevano prescrivere il vuoto concreto di insulina, metrazol, elettricità, idroterapia, psicoterapia, terapia occupazionale, ping pong e amnesia. E che quindi correvano per strade ghiacciate, ossessi da un flash improvviso sull'alchimia dell'uso del catalogo dell'ISSI, che è misura variabile e piano vibrante. Che sognavano e aprivano brecce incarnate di tempo e spazio, tramite immagini giustapposte, e intrappolavano l'arcangelo dell'anima tra due immagini, per ricreare sintassi e misura della povera prosa umana. E star di fronte a voi senza parola, e intelligenti e tremanti di vergogna. Respinti, ma che l'anima tutta confessano per conformarsi al ritmo che il pensiero ha nella sua nuda testa senza posa. Il barbone pazzo e l'angelo beat nel tempo. Sconosciuti, eppure che qui metton giù quel che sarebbe da dirsi nel tempo che viene dopo la morte. E sorgevano reincarnati, in abito spettrale di jazz, all'ombra di tube dorate della band, e soffiavano il soffrir d'amore della mente nuda d'America in un Eli Eli Lama Lama Sabachthani di sassofono piangente, che mandava brividi per la città giù fino all'ultima radio, col cuore assoluto di poesia della vita, strappatogli dal corpo e macellato, buono da mangiare per un migliaio d'anni. Moloch, i cui occhi son mille finestre cieche. Moloch, i cui grattacieli si ergono sulle lunghe strade come infiniti Jeova. Moloch, le cui fabbriche sognano e gracchiano nella nebbia. Moloch, il cui amore è petrolio e pietra senza fine. Moloch, la cui anima è elettricità e banche. Moloch, il cui fato è una nube di asessuato idrogeno. Moloch, in cui siedo solo. Moloch, in cui sogno, angeli. Pazzo in Moloch. Ciuccia cazzi in Moloch. Senza amore e senza uomo in Moloch. Moloch che mi è entrato presto nell'anima. Moloch che col terrore mi ha tolto alla mia estasi naturale. Moloch che io abbandono. Destatevi, Moloch! Luce sgorga a fiotti dal cielo! Moloch! Moloch! Appartamenti robot, sobborghi invisibili, erari di scheletri, capitali ciechi, industrie demoniche, nazioni spettrali, manicomi invincibili, cazzi in granito, bombe mostruose. Si son rotti la schiena a innalzare Moloch al cielo. Selciati, alberi, innalzando la città al cielo, che esiste ed è ovunque intorno a noi. Sogni, adorazioni, illuminazioni, religioni, tutta quella barcata di sensitive stronzate. Rotture! Oltre il fiume, sbarellamenti e crocefissioni, andati giù con la piena, sballi, epifanie, disperazioni, 10 anni, d'urli animali e suicidi, menti, nuovi amori, pazzo generare, contro le rocce del tempo e poi giù, vero rider sacro nel fiume, videro tutti. Gli occhi pazzi, gli strilli sacri, dissero addio, saltaron giù dal tetto alla solitudine, un saluto con fiori in mano, giù nel fiume, nella strada. Carl Solomon, son con te a Rockland, dove sei più matto di me. Son con te a Rockland, dove devi sentirti molto strano. Son con te a Rockland, dove imiti l'ombra di mia madre. Son con te a Rockland, dove fai giochi di parole sui corpi delle tue infermiere, le arpie del Bronx. Son con te a Rockland, dove pesti sul pianoforte catatonico. L'anima è innocente e immortale, non devi mai morire di impietà in un manicomio armato. Son con te a Rockland, dove 50 e più shock non faranno mai tornare la tua anima al suo corpo, dal pellegrinaggio verso una croce nel vuoto. Son con te a Rockland, dove accusi i dottori di pazzia e trami la rivoluzione ebraico-socialista contro il Golgota nazional-fascista. Son con te a Rockland, dove fenderai i cieli di Long Island e farai risorgere il tuo umano Gesù vivente dalla tomba superumana. Son con te a Rockland, dove ci sono 25.000 compagni pazzi tutti insieme che cantano le strofe finali dell'Internazionale. Son con te a Rockland, dove ci svegliamo elettroscioccati dal coma grazie agli aerei delle nostre anime che rombano sui tetti, venuti a gettare angeliche bombe. L'ospedale si illumina da solo. Immaginari muri precipitano. Oh, legioni tutt'ossa, correte fuori. Oh, sciocca stelle e strisce di misericordia, l'eterna guerra è qui. Oh, vittoria, lascia perdere le tue mutande, siamo liberi. Son con te a Rockland, nei miei sogni. Cammini grondante quel mare traversato in autostrada per tutta l'America. In lacrime stai sulla porta del mio cottage, nella notte qui dell'Ovest. Dove accusi i dottori di pazzia e trami la rivoluzione ebraico-socialista contro il Golgota nazional-fascista. Son con te a Rockland, dove fenderai i cieli di Long Island e farai risorgere il tuo umano Gesù vivente dalla tomba superumana. Son con te a Rockland, dove ci sono 25.000 compagni pazzi tutti insieme che cantano le strofe finali dell'Internazionale. Son con te a Rockland, dove abbracciamo e baciamo gli Stati Uniti tra le lenzuola. Gli Stati Uniti che tossiscono tutta notte e non ci lasciano dormire. Son con te a Rockland, dove ci svegliamo elettroscioccati dal coma grazie agli aerei delle nostre anime che rombano sui tetti, venuti a gettare angeliche bombe. L'ospedale si illumina da solo. Immaginari muri precipitano. Oh, legioni tutt'ossa, correte fuori! Oh, sciocca stelle e strisce di misericordia, l'eterna guerra è qui! Oh, vittoria! Lascia perdere le tue mutande, siamo liberi! Son con te a Rockland, nei miei sogni. Cammini grondante quel mare traversato in autostrada per tutta l'America. In lacrime stai sulla porta del mio cottage, nella notte qui dell'Ovest. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Il mondo è santo. L'anima è santa, la pelle è santa, il naso è santo, la lingua e cazzo e mano e buco del culo santi, ogni cosa è santa, tutti quanti sono santi, ogni dove è santo, ogni giorno è in eternità, ogni uomo è un angelo. Il barbone è santo come il serafino, lo squilibrato è santo come tu, mia anima, sei santa. La macchina da scrivere è santa, una poesia è santa, la voce è santa, chi ascolta è santo, l'estasi è santa. Santo Peter, Santo Allen, Santo Solomon, Santo Lucien, Santo Kerouac, Santo Anki, Santo Boros, Santo Cassidy. Santi gli ignoti, inculati e soffrenti, mendicanti, santi gli schifosi angeli umani. Santa mia madre in manicomio, Santi cazzi dei nonni del Kansas, santo il rantolo del sassofono, santa l'apocalisse bop, santi jazz band, marijuana, hipsters, pipe di pace, peyote e tamburi, santo tempo in eternità, santa eternità in tempo, santi gli orologi nello spazio, santa la quarta dimensione, santa la quinta internazionale, santo l'angelo in Moloch, santo il mare, santo il deserto, santa la ferrovia, santa la locomotiva, sante le visioni, sante le allucinazioni, santi i miracoli, santo il globo oculare, santo l'abisso, santo il perdono, la misericordia, la carità, la fede, santi i nostri corpi, i sofferenti, la magnanimità, santa la soprannaturale, extra brillante, intelligente bontà dell'anima.